Ehi, c'è la tribù di Gioca-Gioca! Destro, sinistro e viceverso, quale piede il più estroverso? È bidone il gelatone! Col cacao, sul bidone! Gioca-Gioca, mangia, mangia, mangia, gioca col pedone! Amici, c'è tempo per un altro gelato? Vai con un altro filmato! Guarda troppo, guarda poco, sono il re del doppio gioco! Dottor Scrabble, il gusto doppio, mangiati e poi lo schiocco! Un gelato per amico. Udite un po' chi Sassà. È tornata. Sassà, prova. È tornata la brusca. È tornata per quanto, però? Quanto ci fermiamo? Un'ora. Per un'ora, niente più. Dopodiché, costumino, ciabattina. Meduse. Meduse, ammoniaca e tutti al mare. Sì. Montagna. Probabilmente nessuno dei due, forse solo un po' di mare. Giusto al lago. E ci fermiamo, sì, è arrivato il momento anche per noi di andare in ferie. Quindi di riposarci un pochino, più che altro. Più riposo, sì, ritorno. Rilassarsi, divertirsi, insomma, fare quello che si faceva anche un po' da ragazzini durante l'estate, no? Quindi... come mangiare il ditone. Il ditone, io lo Stravic però non me lo ricordavo. È bellissimo. Ma poi è proprio, ci sono questi due occhioni sorretti da una stecca di plastica con le, penso, due amarene piazzate. No, erano chewing gum. Erano chewing gum. Quello, vedi, non me lo ricordavo. Ed è alla fragola, uno sì, più sì. Bello dell'altro. E quindi d'estate si mangiano i gelati, forse, no? Per questo abbiamo questa scaletta tutta frizzante. Sì, sì, sì, una puntata di saldi questa, estiva e scoppiettante. Sì, sì, scoppiettantissima. Scoppiettante è la parola del, penso, dell'anno. Credo di averla sentita una trentina di volte tra i vari media soltanto nell'ultimo mese. Scoppiettante! Sì. E quindi anche noi siamo scoppiettanti e sentite quanto... Sentite che roba. Ad Avete sentito quanto siamo scoppiettanti quest'oggi? Guarda che roba, senti che... Io ve la lascio perché merita. Si lascia in sottofondo. Sottofondo musicale. Si diceva un po' che insomma... Siamo un bel loop. Il nostro Pablito Escobar ha mietuto vittime anche oltreoceano. Cioè, non so se avete mai, se vi siete soffermati... Sul testo di questa canzone anziché stare a fare balli scatenati, cioè è una cosa proponibile. Il femminicidio, altra parola terribile oltretutto. Quindi. Sì, però il femminicidio esiste, l'essere scoppiettanti, io qui ci vedo poco di scoppiettante comunque. Sto immaginando come fare. Va bene. I mini ciccioli. Siamo arrivati a Maracaibo, l'ultima puntata della stagione. Non chissà se torneremo a settembre. Chissà. Mi conviene ascoltarci oggi. Allora sì, torniamo, non abbiamo ancora deciso quando. Ma tanto aggiorneremo. Sì, insomma. La vastissima utenza. Sì, anche perché ormai i computer sono diventati proprio appendici. Certo. Ce li portiamo dietro ovunque, quindi. Poi col fantastico wifi che c'è a Firenze, come vi teniamo aggiornati, guarda. Figuriamoci. Quindi, dove eravamo rimasti? Un paio di puntate fa. Eravamo rimasti, ci cioè sono state un po', ovviamente ve ne siete accorti. Specifichiamo. Che è successo? Dovete sapere che qui a Radio Wombat abbiamo iniziato a fare un po' di serate. Se vi è successo, visto che magari ci seguite su Facebook così o sul sito, avrete letto che ci sono un po' di eventi con le trasmissioni in diretta. Bene, una sera, dopo aver fatto una trasmissione in diretta con Fuoco alle Polveri, non mi ricordo più chi era, non voglio dare colpe. No, ma anche perché tanto... Insomma, è stata fatta una trasmissione, abbiamo cercato di rimontare la regia, ma non ci siamo riusciti. Siamo schiappe. Quindi... Non siamo andate in onda. Saltate alla grande. Mea culpa di non aver risolto il problema, ma andiamo avanti. L'ho fatto un po' peso questo Vladimir. Sono un po' rallentata, fancallo. Meglio. Allora, bene. Riepilogo del finale di puntata. Esatto. C'era il signor Letri che parlava dei 5 condizionamenti del giornalista, quello dello spazio, del tempo, del linguaggio, eccetera, eccetera. Noi vogliamo continuare a parlarvi di questi argomenti perché ci è piaciuto. Esatto. Non so a voi, ma a noi sì, vero? È molto attuale, attualissimo, e visto che d'estate si leggono un sacco i giornali sotto l'ombrellone. Esatto. E quindi continuiamo a parlare di quello che era un po' la tematica del giornalismo, del linguaggio del giornalista e di tutto quello che comporta l'utilizzo di una terminologia anziché un'altra. Stiamo parlando di cose serissime. Per creare un po' di atmosfera. Non la facciamo finire così. Non me la sento di stopparla. Nemmeno io. La povera Lu Colombo. Tra l'altro è morta, mi sa. Ah sì? Mi sa di sì. Dai. Allora, i condizionamenti legati all'uso del linguaggio. È uno dei condizionamenti del giornalista, dicevamo nella puntata scorsa. E uno di questi è senza dubbio l'eufemismo, che è ormai entrato nel linguaggio comune, no? Nella locuzione, insomma, nel modo di dire, vabbè, te lo dico con un eufemismo, no? In realtà è proprio anche questa una sorta di figura retorica che viene creata non per una forma psicologica, ma per la cosciente volontà di attenuare la crudezza e l'impopolarità di alcune espressioni. No, appunto, come abbiamo detto, va, te lo dico con un eufemismo, stronzo. E per dirlo con un eufemismo è stronzo, ecco. Quindi immaginatevi che mostro di persona. Comodo. E all'attualità, diciamo, è più lampante di tutto. Sicuramente, che ne so, la tematica del lavoro. Abbiamo avuto un anno abbastanza intenso con il Job Act piccante. E quindi, insomma, abbiamo parlato di queste problematiche. E quindi vediamo che, per esempio, il licenziamento, no, diventa un piano di alleggerimento. I disoccupati diventano una risorsa, una manodopera disponibile, addirittura capitale umano, che in realtà il capitale umano appartiene al linguaggio legale, però viene utilizzato anche in questo caso, le risorse umane. La svalutazione diventa un allineamento monetario o uno slittamento della moneta, questo è anche un po' datato come... Però mi viene in mente il TG2 economia, TG1 economia con lo slittamento della moneta. E oppure l'assestamento dei prezzi invece, la crescita negativa che in realtà è veramente è dicotomico, nel senso la crescita negativa è... E la non fiducia invece di sfiducia, e, per esempio invece di fare sciopero gli insegnanti non partecipano agli scrutini e... Insomma, potremmo andare avanti. Ce n'è anche uno sul fascismo. Cioè, quando si parlava di passato regime o di bieco ventennio, in realtà per molti anni si è parlato anche di nostalgici e dell'ex duce. Come se si fosse dimesso. Chiamiamoli come si devono chiamare. Esatto, d'altronde ognuno deve essere, come dire, responsabile delle sue azioni e delle sue scelte, per cui... Infatti questo era il modo per collegarsi anche a quello che era successo 2 settimane fa, per l'appunto era una cosa che dovevamo dire in chiusura, tutti gli articoli parlavano, anziché di sgombero, di liberare uno stabile. Esatto. Questo è un esempio. Quindi anche qui era un eufemismo particolarmente... Operazioni di allontanamento, sì. Addirittura. Sì, sì. E così a questo punto è una patata bollente. È anche sì, una patata bollente e un peperone incandescente. Peperone incandescente sotto l'ombrellone. Che schifo, Vianello, lo posso dire? Sì. Che schifo. Sì, abbastanza. Ma questa canzone ha il suo certo fascino estivo, sì. E quindi lo metteremo. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa stellata, sei come un peperone. Bagnata dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare, accanto alla riva pian piano ti lasci bruciare dal sole. Con tutte le creme massaggi la pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso e le spalle, ti lasci bruciare. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Ormai pure all'ombra continui a scottarti, nemmeno la luna riesce a calmarti. Appena ti stringo tu urli, tu piangi, mio pallido amor. Avevi le labbra così vellutate e oggi le rosse così screpolate, che sembra che io baci l'ortica di un campo ingiallito dal sole. Da quando tu prendi il sole, anche tu diventi rossa come un peperone. Io elimino il problema alla radice e non prendo il sole. Brava, fai proprio bene. Oh, poco perlomeno. Pochino, giusto per le lentiggini. E le vitamine. E le vitamine fissative. Ah, no, quest'anno però forse un pochino di mare lo faccio, mi concedo un po' di sole. Oh, brava. Ci provo. In quel di Follonia. Cesenatico. Non mi far cantare. Oh, io ho sentito i dei giornalisti per la prima volta qualche giorno fa. Sono un gruppo che va particolarmente tra i... In realtà tra i trentenni. È una cosa molto inquietante, preoccupante. Sono questo trio terribile che cantano sotto il sole, dirigione, Oh dirigione. mamma, E poi tipo dice mi mangio un mezzo panino sotto il cielo di Berlino. Una cosa agghiacciante, per cui... quindi dovremmo metterli prima o poi. Sì, sono... No, ma è un... non è trash, è proprio Mamma. brutto, brutto inutile. È proprio una cosa che non ha una... Non è degna di inutilità. A noi. parlare male si rovesciano i Bloody Mary. Bene, bene, bene. Andiamo Nina, avanti. cos'hai combinato? Allora, intanto ti lascio andare avanti con Ma l'argomento prima certo. di... Uno degli esempi, no? Di linguaggio giornalistico che differenzia l'impostazione dello scritto è quello dello stile nominale con la trasformazione del verbo in sostantivo. È necessario che tutti lavorino, diventa è necessario il lavoro di tutti, ok? E quindi il passaggio dal verbo semplice al verbo fraseologico, che ne fa un po' la caratteristica del discorso giornalistico e quindi politico, perché comunque questa cosa viene presa, viene utilizzata spesso, soprattutto riferendosi al detto del politico intervistato piuttosto che uno scritto Sì, è proprio diverso. una... Non avete idea del troiaio che sto facendo. Bene, ecco. Che stavo dicendo? Ok, dell'uso del verbo fraseologico. Questo accade spesso, spessissimo anche nei titoli dei giornali. Poi c'è, per esempio, il politico non dice però dichiara, quindi sempre la sostituzione del verbo. Scusate, ma qui sta succedendo un delirio, non ce la posso fare. Sto spruzzando il Marsiglia sulla postazione. Ecco. Per esempio, Ora la torno a posto. sostituzione anziché dice, dichiara, anziché fa, rende una dichiarazione, anziché essere disposto, dichiara la propria disponibilità, non dice di essere convinto, ma conferma la propria convinzione. Sono tutta una lista che si trova nei manuali di giornalismo, di analisi del linguaggio giornalistico, tutta una lista di sostituzioni, di modus operandi del giornalista che ripropone appunto con questo stile. Va tutto Va bene? benissimo, sì, ci sono. Ok. Perché siamo in estate? Sì. Siamo già in un clima di vacanza e questa, Sì. essendo appunto una puntata scoppiettante, ha nel suo svolgersi qualcosa di scoppiettoso. A questo punto, scoppiettoso, ce lo Scoppiettoso, meritiamo, scoppiettante. ce lo siamo meritate. Col rumore di cannucce anche. Certo. E insomma, quindi questo stile nominale crea tutti gli schemi costruttivi che poi si usano in questo contesto sintattico, molto C'è giornalistico, molto però severo. una ragione, soprattutto quando si tratta, non so, di campagne elettorali o cose di questo tipo. L'utilizzare la trasformazione del verbo in sostantivo serve quasi per scaricare Sì, un'opinione, una colpa, esatto. nel senso è molto più diretto dire io testimonio, Esatto. anziché dire io do la mia Ma testimonianza. allo stesso tempo sembra più importante, corposo e Aulico, aulico esatto. per chi invece legge l'opinione di quella figura che comunque o nel bene o nel male sta parlando di qualcosa che riguarda la cittadinanza, ok, allora va reso noto che è una persona importante Esatto. e usa un linguaggio Quindi aulico. abbiamo diciamo, diciamo, i due punti di una retta, Esatto. gli estremi, eppure... Un punto di partenza e uno di arrivo, come si suol Esatto. dire. Dove si va? Io Dovamo. direi di andare, visto il caldo, così intermezzare un po' con un giretto in spiaggia, non so voi cosa dite. Chissà Con se i... qualcuno sta C'è ipotizzando anche un Johnson e dove. Gino che viene con noi, c'è anche Johnson. Yeah! Allora andiamo, via. Johnson Righeira. Thank you. Pisa me azul. Vamos a la playa. Una scorpacciata di Righeira, i famosi Johnson e Steven Righeira, non mi ricordo, in realtà si chiamavano ti tipo... addirittura i nomi, penso. I nomi d'arte, sì. Tra l'altro, cosa buffissima, ma non ce ne meravigliamo, nel 2007-2008 uno dei due è stato incriminato per traffico internazionale di cocaina. Non l'avrei mai detto. Anch'io. Pensavo traffico d'organi. Anch'io, guarda. A quel punto. Veramente, gli raccontavo prima con la Nenia che ho visto un video dell'85-86 dove loro appunto erano a Sanremo e uno dei due si è presentato sul palco tipo 11 secondi dopo l'attacco della canzone saltando almeno 15 gradini con un balzo proprio felino. Era quello che aveva iniziato le compie? Non lo so perché non li distingo. Come Val Kilmer e Kurt Russell, non li distingo, è la stessa cosa. Come le sorelle... Come si chiamavano le gemelle che ballettavano? Le Kessler, ma quelle vabbè, però non caso... mai provato. No, probabilmente in realtà è un esperimento genetico riuscito. Forse. Non sono gemelle. Sì, probabile. Va bene, andiamo. Allora, dicevamo, un po' di linguaggio giornalistico, che ovviamente, ma dai, non è quasi mai un buon modello linguistico. Lo è stato fino a un po' di tempo, ma ora non lo è proprio più. Comunque, diciamo, in linea di massima, non è un buon livello, un modello linguistico. Perché i giornali possono essere molto differenti tra loro e all'interno dello stesso giornale si trovano addirittura diversi tipi testuali. E per esempio l'articolo di fondo, quello di cronaca, il pezzo di cultura, società, costume, non possono essere accomunati sotto la dizione generica di articoli di giornale, se non per il fatto che sono ospitati da lo stesso supporto, cartaceo o web al giorno d'oggi. E questo sembra il nostro caro Righi, che dice molti testi giornalistici, soprattutto quelli ricchi di articoli di cronaca, sono appunto pieni di moduli linguistici, proprio anzi canoni addirittura, che non possono essere, diciamo, offerti, diciamo, a chi studia la scrittura in maniera acritica, quindi ne studia magari la valenza di per sé senza che questa venga contestualizzata. Tipo minuziose le indagini delle forze dell'ordine. Risultato: arrestati 4 extracomunitari e ritirata la licenza a un imprenditore veneto. Se una formula del genere viene privata di qualunque tipo di verbo, è adatta a un articolo di cronaca, ma non è apprezzabile in un testo non giornalistico. perché appunto insomma manca un elemento nella frase che porta un valore particolare. Quindi possiamo riformulare la sequenza dicendo che le indagini minuziose operate dalle forze dell'ordine hanno permesso di arrestare 4 extracomunitari e hanno condotto al ritiro della licenza a un imprenditore veneto. Più morbida. Guarda un pochino che differenza. Addirittura trasponendo l'ordine proprio degli elementi della frase, delle subordinate. Le forze dell'ordine, dopo indagini minuziose, hanno arrestato 4 extracomunitari e hanno ritirato la licenza a un imprenditore veneto. Esatto, infatti di cosa stiamo parlando? Di stereotipi. Quindi anche questo grande difetto della, come dire, della linguistica giornalistica, che sono appunto formule fisse, luoghi comuni, sono i famosi cliché. Gli incidenti sono sempre spettacolari o caramboleschi. Gli interventi sub... mio Dio. Vabbè. Gli interventi chirurgici sono delicati interventi chirurgici. Abbiamo le brillanti operazioni, i funzionari solerti, il furto audace, la fuga precipitosa. Insomma, abbiamo un sacco di formule stereotipate che generalmente prevedono un sostantivo e un aggettivo accorpati. Quindi sul sostantivo io direi che i ragazzi dell'ombrellone, sul sostantivo, sul cliché, i ragazzi dell'ombrellone un pochino. Esatto. E t'ho detto sì, tu m'hai baciato e t'ho detto sì, ma fin da principio non ho creduto di trovare in te l'amore. Ero soltanto la ragazza dell'ombrellone accanto, ero soltanto la ragazza che passa con l'estate. No, no, no, dimentichiamoci l'essere vicino al mar. No, no, no, non è possibile. Eccoci. Siamo tornate, stavamo facendo merenda. Uno spuntino. Che ore sono? Le 8? Sì, abbiamo ancora un po' di cose da raccontarvi in questa puntata bella estiva, frizzantina. Sempre ovviamente un po' sui toni anni 60 e 80. Dopo i Righeira abbiamo perlomeno sì, cercato di risollevare. La pari trash. Esatto. Oddio, su Mina non siamo troppo trash, siamo più un po' sul melo andante. Sì, sì, è vero, ma potremmo farci. Ma non avete ancora sentito niente? risata malefica. Sì. E cosa dicevamo anche? C'erano prima gli stereotipi, mm-hmm. e ora ci affacciamo in una lista di... Una cosa molto particolare. Ce lo vuoi dire tu? No, non ho voglia. Dai. Ti tocca. E allora lo dico io. I plastismi. Cioè, i giornali sono tra i maggiori veicoli di plastismi, no? Quindi quelle parole di moda che vendono poi ampliare la propria sfera semantica, addirittura dicerigli fino all'indefinitezza. Però questi plastismi in realtà sono parole o locuzioni che estendono il loro uso al di fuori del loro significato originario e vengono utilizzati in molti significati diversi, come il problema, nel senso di problema, la caratteristica, l'importanza, l'argomento. Quindi sono, diciamo, delle quasi degli allargamenti di contesto semantico di alcune terminologie. In realtà dire plastismi è abbastanza raro ancora. Nel senso, non si usano quasi più, per cui nel linguaggio giornalistico ci sono, ma non si conoscono quasi più con questo termine, ecco. E poi c'è lui. Ecco, c'è lui che, insomma, questo sì che si usa ancora un sacco. Sì. L'abbiamo in realtà anche già accennato altre volte quando abbiamo fatto la trasmissione sulle figure retoriche, se non erro. Che è il linguaggio figurato. Ovvero è quel linguaggio giornalistico ricco di figure retoriche. Esatto. Perché queste, comunque, lo sappiamo, non dovrebbero essere usate con eccessiva leggerezza o in maniera inconsapevole, perché sono elementi che introducono un'oscurità linguistica. I giornali, per esempio, usano molto spesso le metafore, che sono logore. Ovvero le metafore giornalistiche, quelle pubblicitarie, sono logore perché servono a velocizzare la comunicazione e renderla più vivace o memorizzabile. Soprattutto la pubblicità lo fa questo. Vabbè, è notorio, insomma, è abbastanza ovvio. E le metafore, non tutte le metafore sono adatte a un registro diverso o sono, diciamo, motivate in un contesto che non è quello giornalistico. Cioè, se un giornale può dire che il prodotto sfonda sul mercato, un testo più sostenuto dirà che questo prodotto ha avuto la possibilità di affermarsi su larga scala, per esempio. E cosa possiamo dire ancora? Che la figura retorica è una deviazione consentita rispetto all'andamento regolare del discorso, no? Con cui si cerca di conferire o si vuole conferire un ornamento o un'espressività aggiuntiva particolare. E, tra gli esempi poi più noti nel mondo del giornalismo, oltre alla metafora, abbiamo la ripetizione o soprattutto l'interrogazione retorica, che viene utilizzata per affermare, per rafforzare un'affermazione. Brava. Grazie. Sono meritata una patatina. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le treno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, sogni birichini. Questi strilli secondo te li faceva lei, eh? Sì, sì, quelli finali no, ma uno sì, cioè era lei. Tra l'altro Juni Russo, un mostro è stata di voce meravigliosa proprio. Andatevi a sentire un po' le ultime cose che ha fatto, perché purtroppo è morta ormai 7-8 anni fa. Sì, è vero. Sì, e andatevi a sentire le ultime cose di musica sperimentale vera, con la voce. Sì, sì, però è veramente un portento della natura, una roba, giusto per usare una metafora, un portento dell'estate. E quindi proseguiamo, insomma. Adesso di che si parla? Un po' di titoli, perché comunque perché il ruolo della comunicazione giornalistica sono i titoli. Sì, perché poi appunto la comunicazione in generale deve avere sempre un incipit, e quello che è l'incipit nella comunicazione giornalistica, in quello che noi leggiamo, sono appunto i titoli, che hanno delle caratteristiche che li differenziano, ma cercano soprattutto di veicolare in maniera estremamente compatta il significato pregnante dell'articolo. Ovvero, ora aspetta, devo fare una cosina. Vai, scusa, ti ho interrotto. Quindi, no. Hanno delle caratteristiche questi titoli, che sono il carattere sensazionalistico, oppure più, come dire, quasi narrativo, la quantità, la posizione e la funzione discorsiva. Il titolo può essere anche di diverse tipologie, nel senso che può essere un titolo sintattico, e questo dipende da come il titolo si posiziona rispetto all'articolo, no? Oppure c'è anche un piano semantico del titolo, che si riferisce a che cosa dice il titolo dell'articolo. Poi ovviamente anche nella sua funzione discorsiva, per esempio, può essere pragmatico, e quindi insomma dare può essere collocato perlomeno in maniera differente, cioè se un tempo il titolo anticipava l'articolo, oggi generalmente può essere anche posposto, o meglio dal punto di vista grafico può essere sistemato in mezzo a due colonne, quindi nella parte centrale. Poi c'è tutta la questione anche dell'articolistica web, dove ci sono i cosiddetti header che vengono suddivisi per importanza e per capacità di indicizzazione sui motori di ricerca, per esempio. Eh sì. Insomma, quindi le cose cambiano, però non la funzione rimane poi sempre la stessa. Sì, ecco, cambia, nel senso, cambia l'utilizzo, il sensazionalismo. Contesto, ma sui social, tra l'altro, invece c'è il sensazionalismo proprio che va a 3.000 per questa questione del clickbaiting, cioè ti scrivo una stronzata come titolo, generalmente mozzo, sì, seguito dai puntini affinché la tua curiosità venga stimolata proprio per in maniera becera e tu clicchi. Quindi il traffico, no? Perché sì, anche il traffico ai siti web viene pagato. Eh sì. E allora, intanto che fai una merendina, no, io no, ti riporto in un'atmosfera completamente marina. Sì, ma... No! Ma che strano sogno, di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blu Gardinia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Brucia nella notte la città di San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow, noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema? Ma ci sdiamo stasera con le trashate anni 80. Io ho già il pareo, forse in quegli anni non usava il pareo, però possibile? No, infatti usavano i pantaloncini di tela, sì, le superga, una roba più così. Le polo, io non ho mai capito come si potessero utilizzare con 40 gradi, nel senso, le polo per andare al mare, sì, certo, nah. Jeans. E quindi si parlava appunto dei nostri titoli, no? Quindi si parla di titoli, per esempio, che si differenziano come anche tipologie di fonti, cioè per TV e radio, TV e radio, anzi per i quotidiani, sono fonti di informazione, invece i quotidiani per la TV e la radio sono fonti di legittimazione. Per quale motivo? Perché c'è una dimensione intertestuale di quella che è la comunicazione della notizia. Ovvero c'è il dialogo con i testi, no? Nel mondo del giornalismo, quindi i testi del giorno, di altre testate, dell'agenda setting, quindi del planning degli articoli di quella settimana di un dato giornale. È il dialogo appunto con questa tipologia di testi che determina l'effetto di senso del titolo. È un po' complicato come concetto, però se ci pensate un titolo senza testo poi in realtà non ha un gran senso. Il quotidiano però non può pensare di annunciare al lettore le notizie del giorno, perché queste sono già diffuse dalla radio e dalla TV. Cioè, generalmente questo avviene su un piano temporale diverso, per cui il titolo può essere sensazionale quanto vuole il quotidiano, ma generalmente ormai, soprattutto al giorno d'oggi con la diffusione dei media, è così, il giornale arriva sempre secondo. Però i titoli dei giornali rimangono comunque diciamo un elemento di ispirazione, o perlomeno un elemento che si ritrova in qualsiasi mezzo di informazione giornalistica, come il giornale radio oppure il telegiornale in televisione. Cioè, a seconda quello che importa, un titolo è un titolo, ciò che fa la differenza è la dimensione della notizia che si vuole evidenziare. Cioè, a seconda della tematica abbiamo dei titoli diversi, sono i titoli narrativi, iconici, patemici, interpretativi, che hanno delle varianti. Per esempio, un titolo narrativo, quale può essere, Nenia, secondo te? Lo diciamo, una roba brutta, terribile. Attentato contro l'ONU a Baghdad. Ecco, però è molto semplice, cioè ti dà un'informazione abbastanza pulita, non ha sensazionalismi, non ha nulla. Invece un iconico... La strage dell'ONU. Che oltretutto ambiguo, perché sembra che in realtà il complemento... Chi l'ha gente, fatta questa strage? Chi esatto, l'ha subita? L'ONU, non si capisce chi è, diciamo, una formativa. Chi ha straziato chi? Esatto. Il patemico. L'ONU colpita al cuore dal terrorismo. L'interpretativo. Baghdad, Gerusalemme, i terroristi fanno strage. Oppure, strage a Baghdad, strage a Gerusalemme. Ecco, questo è uno dei titoli che va per la maggiore. Sì, questo sì. L'interpretativo però viene utilizzato generalmente poi in un secondo momento, cioè dopo che è stata veicolata la prima notizia, no? Dopo che è stata veicolata all'ultima ora, l'interpretativo viene dato quando già si sa che si può permettere di omettere qualcosa, insomma. Quindi che cosa succede? Che varia l'informatività dei diversi titoli, quindi quanto dicono degli eventi a cui si riferiscono, varia la tematizzazione che veicolano, quindi il tema. Varia la tonalità emotiva, questo sicuramente. Quello sì, quello è la maggiore. E varia il rapporto dei titoli con le immagini. Mamma. Ovviamente, a seconda del titolo, viene abbinato un'immagine particolare. Sì, che anche quello potrebbe diventare un capitolo intero, una serie di tre puntate della Brusca esatto. Dedicate a questo. Qua non so per quale motivo abbiamo preso un giornale in particolare, per fare l'esempio, quello di Scalfari, La Repubblica, dove abbiamo i cosiddetti titoli paratattici. Nominali, quindi come abbiamo visto prima, no? Stile fortemente iconico, forte senso di realtà, e ricorre spesso a frasi nominali secche. Non è scoppiata una guerra, ma è guerra. Sì, è guerra, è strage, è strage. Disastro, è femminicidio. Sì, è molto, è molto frequente, soprattutto La Repubblica, sì. Soprattutto La Repubblica nelle prime paginine, l'aspetto più bello poi è girare per la città e accanto alle edicole trovare questa cornicina, no, che espone i titoli principali, strillo. Certo, è meraviglioso, perché lo leggi di fretta, stai camminando in macchina e tutte queste omissioni non ti fanno capire niente, oppure ti fanno capire veramente l'opposto di quello che è successo, o assimili, che so, una parola all'articolo precedente, ma lì non è diviso da niente, quindi te potresti pensare che è successo di tutto e chissà. Infatti. Meraviglioso. Stavo pensando a un titolo che avevo letto di recente, ma non me lo ricordo più, quindi posso citare Lercio. Come fai? Attenzione, a citarlo? Attenzione all'anagramma, pesante. Parroco. Aspetta, no, poi faccio come le barzellette. aspetta. Aspetta, Parroco appassionato di anagrammi prende parrocchia a Codroipo a Udine. Sì, è un sì, paese sì, che esiste sì, davvero. Fatevelo voi. Codroipo esiste davvero sì, sì, a Udine, per cui insomma fatevelo voi l'anagramma. E questa è stata una spettacolarizzazione del reale, caratterizzata da grande Lercio. Una caratteristica dell'attuale informazione. Meraviglioso. Va bene, siccome ti vedo ancora un po' biancuccia, no, allora ti metterò gira, mondo gira, nello qualcosa che ha bisogno fine, di un gran sole. Negli amori appena nati. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Che romanticismo, quanto era innamorato Gino Paoli della Sandrelli. Ah, sì. Una cosa davvero, insomma, vabbè. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, sì, sì, il qui mondo. C'era tutto. Oh, vabbè, non si è mi provochi. Mai un momento. Tu mi provochi. Col trillo proprio, no? Sì. Che dire... Poco ancora, perché in realtà vogliamo... si è finito. Divertire soltanto con un bel po' di musica, della musica stupenda, oserei dire. E niente, in realtà siamo arrivate, dai, basta, non vi tedieremo sono più. Le 20:28, abbiamo, siamo state puntualissime. Abbiamo da dirvi che altro, visto che andremo in vacanza, di ascoltare le repliche che passeranno di tutte le trasmissioni. Esatto. Penso sì, ormai tutte, forse noi eravamo rimaste rimasti. Non mi sa, siamo rimasti noi e la ultime... fuga, forse le ultime trasmissioni. Ecco, la fuga continua, prosegue, quindi dalla fuga otterrete ancora delle nuove puntate. L'unica forma di vita reale della Wombat, non automatica. L'unica forma di vita in diretta. Mentre tutto il resto va in replica e allora lo ascolterete, nonché scaricando i vari podcast che vi siete persi magari durante l'anno. E così ve lo ascoltate mentre vi baciate sapore di mare, certo, sapore di vi sale. Spalmate la cremina. Il sito non ve lo dico perché tanto significa che se ci state sentendo significa già ci siete. Twitter per gli aggiornamenti futuri è twitter.com Radio Wombat Firenze. Facebook.com radio-wombat-firenze, mail posta wombat@insiberia.net e queste sono un po' le nostre fonti di informazioni, anche magari durante l'estate per venirci a trovare a qualche evento estivo, perché è vero che siamo in vacanza, non diamo le dirette delle trasmissioni, però siamo comunque super attivi nel territorio, quindi veniteci a leggere da qualche parte, nel sito degli eventi sicuramente qualcosa troverete. Su Facebook anche ci sono un sacco di aggiornamenti. Anche Facebook, sì, sicuramente. Bravi ragazzi super giovani attivo. Che ci stanno dietro. Sì, sì, io mi rifiuto, ma bene ci siano i giovani. Vi ricordiamo gli eventi. Gli eventi, importantissimo. Se siete già sulla strada che porta al Piemonte, 27, siete 30. Messi bene. Il 27... Siete nella giusta direzione. In realtà da oggi parte. Infatti è proprio oggi. Fino al 30, domenica, abbiamo il Festival di Alta Felicità, che è a Venaus. Ci sono tre giornate di musica, c'è Rui Paci, insomma, ci sono dei nomini abbastanza conosciuti, e soprattutto c'è il campeggio gratuito. Poi cos'altro? Fatemi pensare, è tutto free, c'è l'ingresso gratuito, il campeggio gratuito, come arrivare? Sto leggendo la locandina. E quindi è un festival in un posto molto bello, appunto a Venaus in provincia di Torino, in piena montagna, ovviamente tutto notav, per cui è chiaro. La causa basta sapere è, quello. È quindi, ottima insomma, e se siete da quelle parti supportate, freccia. Esatto. Poi invece domenica, qui più vicino dalle nostre parti, vicino a Firenze, alla Rocca di Carmignano, c'è un concertino molto carino di un caro amico della radio del Wombat, che è Bad Girl. Quella quindi, cattivissima ragazza. Esatto, una cattivona terribile. Sì. E quindi vi consiglio di venire a vederlo. Tra l'altro ci saranno anche gli UZ, per cui insomma, rovina. E quindi chi c'è? Insomma, basta, ci si là. Bene, allora ciao. Ci vediamo buone a settembre. Vacanze, ci sentiamo a settembre in diretta. Vi raggiorniamo con la nostra rimessa in onda quando resusciteremo dalla sabbia. Quindi vi facciamo sentire l'ultimo pezzo che dedichiamo all'amica di Uma. Questo è dedicato all'amica di Uma. Ragazzi. Sì. All'amica di Uma. Boys.